digo que vas a ir a echarle un gin tonic. Ahí la multa, la multa. Esto lo mismo ayer en el centro de Chantesco, ¿no? Sí. Camino, del camino para abajo, donde está Pedro, ahí va a estar patinando. ¿Sí? Mikey Green. No, mi allontano e basta. Ecco, allora allontanati. Se no fa bu bu bu bu bu. Perché questo spinge, non c'è niente da fare. Ero vicino, no, ero in canale 46, parlando con uno che si trova in Portogallo, un camionista. Se mi copre adesso. No, no, così no, così va bene, a voi. C'è problema così. Andare. Perché il microfono mio è troppo alto, ti sembra? Sto usando uno mio, uno il microfono. Sì, ma se lo tieni troppo vicino va a strappare giù. Non sembravi neanche tu. Invece quando lo tieni a questa distanza va bene, è la tua voce normale, bella amplificata, però se tu te lo avvicini strappi immediatamente, è troppo sensibile quello, capito? Sì, ok, ok Natalia, è troppo boom. È la stessa cosa se tu alzi la voce, per esempio, anche avendolo così distante, va a strappare ugualmente. Se uno c'ha il tono di voce più alto del normale, strappa. Un attimo il blecco. Sì, lo so, è molto sensibile questo microfono. Natalia, è il suo, capito? L'avevo tolto, sto usando il suo. Vediamo chi è questo Breco, avanti Breco. Ok, stazione Filippo, Roma Radio. Stazione Filippo, sto sentendo bene, grazie. Se vuoi ripetere, perché ti hanno sovramodulato la propagazione, se vuoi ripetere, mi fai una cortesia, avanti ancora amico. Ok, la stazione Filippo che sta provando un palacino, se sta uscendo bene, cambio. Ah sì, sta uscendo bene, il segnale è buono. Sì, Filippo mi sembra di aver capito, sì. Sì, solo che c'è propagazione e al momento magari è più forte del tuo segnale, perché ne arrivano oltre il 9. Sì, va bene, avanti Filippo. Adesso, quando arrivo lì dove siete, non so dove riprendete, ok? Io sono sotto torre. Vedi un po' come sto uscendo lì. Te l'ho già detto, sta uscendo benissimo. Non c'è problema. Santiago 9, la radio è ottima. Va benissimo, solo che quando c'è la sovramodulazione della propagazione è difficile per tutti passare, capito? Perché? Perché arrivano più forti. Se arrivano più bassi, passi tu, se arrivano più forti di te, di segnare, passi tu, cioè passano loro, per cui va bene così. Sì, io sono a Sassari in compagnia di un altro amico che adesso ti mando avanti. Vai da Tarifa, è sceriffo di Porto Torre. Io non l'ascolto, c'ho l'antenna troppo bassa e non riesco ad ascoltarlo. Attento sceriffo, l'amico qui di Sassari vicino a me non ti ascolta, perché ha l'antenna bassa. Non so se tu l'hai ascoltato, avanti sceriffo. Ho staccato due passaggi dall'altarino, comunque se non mi sento me lo sono tu, ok? Vedo un po' la salita mi senti. Lo sento, ma non è comprensibile la voce, capito? Giù. Non so se mi ascolta lui. Sì, lui ti ascolta, ma mi ha detto di salutarti, se per caso tu non lo sentivi, mi ha detto di salutarti, Natalia. Lui ti ascolta, ma sai cos'è Natalia? Che oggi c'è la preparazione e dunque la frequenza non è pulitissima, sarà per quello sicuramente, perché a me mi arriva benissimo qua. avanti, sceriffo, dai. Ti ascolta basso basso, batte la preparazione appunto che ti copre, quello è il problema. Avanti, sceriffo. Com'è la differenza? Il secondo passaggio è nettamente migliore. Il primo è Santiago 8 quasi, mentre invece il secondo è 9 appena appena abbondante, va bene così. È sicuramente migliore il secondo passaggio. Ok, la radio è sempre migliore, sempre 5. Sì, la radio io ti ascolto sempre bene, anche con Santiago 8 scarso. Ti ascolto lo stesso bene, non c'è problema. Solo che il Natalino non ti ascolta con quella radio più bassa. Mentre con l'altra potrebbe, ripeto, anche ascoltarti in un momento di poca preparazione. Sicuramente così. Adesso chiediamo a Natalino se lui ti ha sentito. Vai Natalino. No, negativo. Non è comprensibile, capito? Sceriffo, Natalino non ti ascolta, dice che non sei comprensibile. Sente magari il tuo parlare, però dice che non è comprensibile da lui. Da me ha detto benissimo, Santiago 9, anche appena abbondante, nel secondo passaggio. Nel primo invece era quasi 8, e la radio era sempre quella comunque, era uguale, non c'era niente di differenza. Vabbè, dai. Riprendi ancora sceriffo, vediamo. Sceriffo, sei sparito? Sì, io ho cambiato il microfono, solo che non esce. Ho fatto fare un passaggio e non ho sentito nulla. Ah, io ho capito. E vabbè, se non esce il microfono, cosa ci vuoi fare? Aggiustalo, fallo riparare o riparalo tu se sei buono a farlo. Non lo so, ma io come ti arrivo lì da te? Tu bene mi senti a me? Santiago 9, radio 5, radio 5, siamo a Terziana. Ok. In che zona sei tu di Porto Torres, così tanto per capire un attimino? Non è che voglio l'indirizzo di casa tua, sia ben chiaro. La zona, mi devi dire di Porto Torres, dove sei, così tanto per capire. Senti quando andavi molto fortissimo in preparazione. Zona dei Pedriazzi, ho capito, va bene. Dove c'era una volta la strada legname, quello che vendeva legname, che adesso non c'è più da anni. E lì in quella zona? Sceriffo? Adesso sei uscito malissimo dal radio, non ho capito quello che hai detto. Io ho chiesto se sei nella zona dove c'era quello che una volta vendeva il legname per fare diameria, se sei lì in quella zona. Che non funziona più già da anni, non so, ma ti stavo chiedendo se sei in quella zona, di Bedria sei in quella zona lì, no? Ma adesso sta uscendo male il radio, mi cosa hai combinato? Adesso la radio non si capisce, arrivi spezzettato, arrivi, aggiustalo col microfono perché non va molto bene, intanto faccio girare per Natalino, vai Natalino. Cappalai, io rimango in ascolto che sto facendo roba col computer. Va bene, la salita, domani ci sentiamo dopo. Se entra qualcuno, vediamo un po' se si possono fare due chiacchiere. Va bene. Avanti, sceriffo, vediamo un po' se hai messo a posto il microfono, perché l'ultimo passaggio era incomprensibile proprio. No, guarda, non si è arrivato bene in radio, non si capisce. Forse la preparazione che ti disturba sarà quello, non so cosa dirti. Fatto sta che non capivo quello che dicevi. Ok, sceriffo, vediamo, riprova. vediamo un po' se è possibile andare avanti, se no pazienza. Ok, viste. Ti sento male. C'è la propagazione, c'è l'info, purtroppo la propagazione ti disturba, eh. Non capisco quello che dici. Pazienza, dai. Vuol dire ci sentiremo un altro momento, magari in condizioni migliori di adesso, perché adesso sinceramente la frequenza è un po' sporca dalla propagazione. Ok, sceriffo, dai, ti saluto a più tardi, se coincide, magari quando abbassa la propagazione può darsi che ci sentiamo di nuovo, dai, se tu ci sarai in frequenza. Io suppongo di sì, perché ho intenzione di parlare fino alle ore 8 di stasera. Cui va bene così, aspetto gli amici che entrino e dopodiché vedremo se è possibile fare quattro chiacchiere. Va buon sceriffo, ti saluto, ciao, salutoni. Ciao, salutoni, ce ne sentiamo, ok, ciao. Ok, ciao sceriffo, ciao. Meglio, pure meglio. C'è qualcuno? Che vuoi ci sia? Sempre io ci sono. Ciao Gianfranco, ben sentito, nessun altro oltre a te? Per adesso sembrerebbe di no, salvo qualcuno in ascolto, ma evidentemente non può riprendere. Ho capito che c'è in ascolto? E qualcuno c'è sempre in ascolto, però magari non vorrà entrare. Ah vabbè, quello è poco ma sicuro, ce ne saranno più di uno, qualcuno con certezza lo so, però poi ci sono gli altri sconosciuti che magari non sappiamo ma fanno ascolto come lo possiamo fare noi in altri tipi di situazioni. Beh, quello sì. Anche oggi è una giornata di quelle indefinite, non si sa se c'è caldo, se c'è freddo, se ci sono tutti e due caldo e freddo. Un clima tutto che ne capisce bravo. Già lo so, ma anche domani più o meno come oggi, però mercoledì è provvista un po' di acqua, qualche passatina non eccessiva, però qualche passata di acqua, qualche spruzzata è permesso. Cioè è previsto. Sì. Ed è un po' anomala sta cosa che arriva, acqua non arriva. Anche perché no, poi alla fine neanche ti rinfresca, Cioè sembra una cosa tipo modello tropicale, ecco. Sì, ma poi è un tempo strano, quest'estate siamo quasi a giugno, cioè siamo, non quasi, siamo già a giugno, in altri tempi qualche anno fa eravamo stanchi di fare il bagno, io 3 anni fa ho fatto il 25 aprile, poi l'altra volta il 1° maggio, ma quest'anno non ho ancora fatto il bagno, vabbè, 2 settimane fa si poteva fare, però ero impegnato in altre cose e non ho potuto. Ieri era previsto e te ci vado in giro al mare col campo e poi ho visto c'era una brezza, ho preferito salire su in collina, in montagna, sono andato verso, te l'ho già detto, verso su, verso Tempio, non avevo voglia di salire in cima perché di lì è molto rischioso per i freni, mi è già capitato di lì, perdi un bar di pressione per cui la frenata è molto, cioè non rende l'impianto, poi scada, infatti con l'esperienza che ho avuto di altre situazioni, quando sono arrivato a 1000 metri, ieri 1000 passametri, piano piano, marce basse, no come avevo fatto la prima volta, a cacchio che i freni avevano scaldato, perché arrivare su ci devi fare, sono 6 chilometri fino a Valliciola, e più per salire su in cima devi farne altri 5 chilometri, perché sono 11 chilometri di tornanti e ascendere è un bel problema. Se poi con i freni e anche con la macchina ci deve un po' stare cauto, di lì anche andando al coso, all'orto bene, la stessa cosa. Di là ce ne sono un po' di più in certe zone, però la zona è bella, è bella. Stavo cercando di ascoltare a proposito di montagna, un ponte che c'è in 10 metri che hanno messo in Toscana e non ci riesco, mi rispondono sempre questi impiegati di ponti, o sono francesi o sono tedeschi, lo scritto è troppo lungo evidentemente, però c'è molto traffico lì, molto traffico e anche da varie nazionalità. Insomma, mi piacerebbe sapere che tipo di cavità usano e se li usano soprattutto le cavità, perché sono in 10 metri, non è cosa da poco, le cavità sono grandi quanto una tamburlana, anche di più. Me lo immagino. Ok, aspetta, sento qualcuno chiamare, non so se era in propagazione o che cosa. Avanti, chi vuole entrare? Chi mi ha sentito? Entrare alla radio? Chi è avanti? Ok, provo alla radio, voglio vedere come è. Allora, qua il segnale è 9 abbondante, 9 più 5. La voce è discreta, dai, radio non ti do 5 perché c'è un po' di QRM. Dove ti trovi? Ah, le punti, ma sei quello che ha chiamato ieri per caso? Chi sei, avanti? Lupo grigio deve essere. Ma chi sei, lupo grigio? No, non credo sia lupo grigio. Avanti, Nicola, tu sei? Adesso non lo sento più, c'è gente sotto, ma in mezzo al QRM. Lui, si sarà lui, ma mi sembra strano, ha detto prova radio. Avanti di nuovo l'amico che ha detto prova radio, se si presenta ci fa un favore, avanti. Chi sei, avanti? Vabbè, se vuoi entrare entra, ma non credo che era lupo grigio. Tu, ti è sembrato lui, Gianfra? No, non lo posso ascoltare. Perché c'ho lo squelce altissimo, perché poco fa mi stavo facendo solo, c'ho addirittura sì, oltre l'SS non passa nessuno. Guarda, io ce l'ho tra il 6 e il 7 il QRM, ieri sono arrivato al 6, ma qua ce n'è troppo, vabbè che c'è anche una buona ricezione, però i segnali sotto il 6 io non esistono da me, non ce la fai, devono arrivare un pochettino più forti. Di nuovo avanti l'amico che chiamava e chiedeva un controllo, poi chi sei avanti? Poi c'è sotto altra roba, vabbè lascia stare, dai. Pazienza, vuol dire che non ha voglia di entrare. Stavo dicendo quindi, ma in diretta arrivi sempre su questo ponte o così saltuariamente, Gianfra? Ma anche su quello è difficile rispondere, perché siccome sono pochi canali, no? Credo che siamo 5 o 6 i canali riservati ai ponti, perché la banda del 29 è molto stretta, e quindi anche se indovini il tono, magari c'è quello che c'è da diverso e quindi e tu lo senti, sai come noi in 27 ad esempio, senti due modulazioni, a volte arriva forte uno, a volte arriva forte l'altro, quindi non riesci a capire qual è, anche perché tanti sono sulla stessa frequenza e quindi è un po' un macio, però arrivano chiarissimi, è proprio molto bella come trasmissione. Ma tu che antenna stai utilizzando? Una direttiva per la banda di 10 metri? No, la Game Master non va bene. La Game Master, guarda, fino a 30-31 galoppa benissimo come antenna, per quelle frequenze. No, era una domanda che ho fatto, anche se mi sembra un controsenso fare un ponte sui 10 metri, boh, che vantaggio ne hai? Perché che vantaggio ne hai? In molti già i 29 vengono considerati VHF. Sì, no, ma dico, e quanta gente si aggancia, cioè considerando quando c'è propagazione rispetto a un ponte VHF, per dire, c'è una copertura enorme, se c'è un pochettino poco di propagazione, si sovrappongono uno sopra l'altro. Sì, ma ad esempio le misure che stanno facendo su quello della Lombardia, stiamo parlando di una copertura di oltre 50 km. Quindi riesce a collegare anche regioni diverse di là. Tieni presente che poi sono tutti in zona altissima, è come avere un ponte, diciamo, su Limbara, che è relativamente basso rispetto a quel tipo di montagne lì. Quindi certo la manutenzione non deve essere uno scherzo, però sono alti. Non ho sentito ancora stranamente, forse perché non era favorevole, quello invece in VHF, che è su Real Piappuane, quello a 575. Ma cosa, Monterasio è stato riattivato? Credo di no. Monterasio, l'R0. A meno che non abbiamo cambiato il tono, ma non è che ci bazzichi molto, e quindi non è che adesso sono molto informato, ma fino a qualche settimana fa mi sa che non lo sentivo. Perché avevo sentito che era andato Walter insieme a Fabrizio, non so chi, per rimetterlo, ma diversi mesi fa, almeno 3 mesi fa, per riattivarlo, sistemarlo, fare manutenzione. Può darsi. Solo che sai com'è, bisogna trovare la giornata libera, tutte quelle belle cose lì, il tempo purtroppo soprattutto in questo periodo per molti non è così semplice, non è facile gestire questi ponti che sono spesso in zone disgraziate, poi sono quasi sempre ospitati da altri, quindi insomma di norma non sono cose proprietarie, ecco, come possono essere quelle di un istituto di vigilanza o di altri enti. Si è sempre ospitato praticamente. Sì, assolutamente. L'altro giorno proprio ho letto, vabbè non c'entra niente con questo discorso, stanno di nuovo iniziando a rubare le attrezzature dai broccati. A Radio Maria non so cosa gli hanno portato via, centinaia di migliaia di euro di attrezzatura, proprio ultime generazioni digitali, DAB, eccetera, eccetera, cose assolutamente importanti. Poi qualche settimana prima lo stesso di un'altra radio le hanno rubato tutto, stanno andando a colpo sicuro, nel senso vicino c'era un'altra postazione attaccata, non hanno toccato niente, sono andati proprio su quello a cercare. Sì, ma ho visto che secondo le zone sono, molte sono telecontrollate, quindi se li pizzicano non dovrebbero avere vita facile questi, prima o poi, anche perché queste apparecchiature da qualche parte poi devono andare, ecco. Ma molte di queste cose vanno anche all'estero, lo sai, perché adesso stanno riaprendo i paesi dell'est, prima i broadcasting erano tutte nazionali e adesso piano piano hanno liberalizzato già da qualche anno e ci sono piccole anche emittenti, diciamo, locali, senza dico nazionali, e cacchio, quando trovi una apparecchiatura che costa 10-15 mila euro, magari loro te la danno a un prezzo di regalo, la musica è diversa. Guarda, se per quello qua io mi ricordo che ci avevano chiamato perché ci avevano disintegrato la fibra e l'avevano tolta volutamente, erano degli zingari, pensando che fosse rame, li avevano pescati i carabinieri, hanno fatto un danno che non ti dico, perché la fibra, una volta che la togli in quella maniera, come se fosse rame, si spacca tutta. Lo so, poi è una cosa delicatissima. Ma gli zingari, a me mi stava raccontando un amico mio che lavora all'Enel, non adesso, parliamo di qualche anno fa, nelle zone di campagna dove ci sono ancora le qualificazioni, la rete è in legno, con i pali in legno, ormai li stanno più o meno tutti sostituendo, però in zone un po' particolari ci sono ancora i pali di quelli di 7-8 metri in legno. Allora sai cosa fanno? Ne bruciano due, ma non so se fanno un fuoco, così cade la linea in terra, chiamano vigili del fuoco per spegnere e l'Enel automaticamente, praticamente come c'è l'attivazione, c'è un calo di tensione, cosa viene, si blocca tutto quanto, che c'è un sistema di controllo e di sicurezza. Loro vanno la notte, ne bigliano il dutto, ne tranciano i cavi, dice, si stavano facendo, non so, non è roba di adesso, di un paio d'anni fa, si facevano ricchi così, senza fare niente. Allora andavano la notte, tac, rotolavano e si portavano via il cavo. Ma infatti molti di questa gente li hanno fregati facendo i pedinamenti, tanto lo sanno dove lo portano, perché i ricettatori sono sempre gli stessi, non è che lo portano da uno sconosciuto. E puntualmente li pizzicano, ma tanto quella gente che se le manda in galera le fa pure un piacere a volte. Guarda, io ho visto, non ti dico dove, però uno che ritira il materiale ferroso, qua in zona, non facciamo nomi che non se ne fanno male, dei dipendenti di una ditta, diciamo, nazionale, multinazionale, che si occupa di telefonia, eccetera, eccetera, lo stesso non facciamo nomi, sono entrati con la macchina loro, carichi di cavi di coso, di elettrici, li hanno portati dentro, appeso, sai quanto te lo pagano il rame? Un sacco di soldi, tu, se tu hai qualche centinaio di chili di rame, ti vai un bel di denaro. Ma infatti io ne ho tanto perché ho tubature di rame, quelle vecchie, ce ne sono un paio di mattasse, le ho detto di portarle via, che lo pagavo, poi non c'è ne gana, ma vabbè, comunque cosa ci vuoi fare, i ladri penso che esisteranno fino alla fine del mondo. Quello è poco ma sicuro, il ladro ci sarà sempre, dal negozio di alimentari alla banca, c'è sempre qualcuno che ha interesse a recuperare qualcosa, e purtroppo le pene qua in Italia sono ridicole, non ti fanno niente. Prova a rubare in qualche paese straniero, tu, in certi tipi di paesi, a ver se te la fai la galera, se non parliamo paesi arabi, di quelli musulmani, perché secondo che paese vai te ne tagliano la mano se sei in Arabia Saudita. In Cina ti mettono dentro e ti cancellano, non esisti più, proprio ti cancellano. La preparazione sta prendendo. Sì, ma c'è una barzelletta dei soliti sussinchi, no? Che il padre e il figlio si trovano in carcere e il figlio dice al padre, babbo sei stato bravo, gli ha insegnato il lavoro, e il padre le ha risposto, figlio mio, il lavoro già è buono, è che non te lo lasciamo fare. Tu non so se hai visto uno dei più belli film di Alberto Sordi, Ladro lui e ladra lei, l'hai mai visto questo? L'avrò visto ma non me ne ricordo adesso. Ne ho visti tanti, ma a me piacevano soprattutto quelli di Nino Manfredi, che era micidiale. Io mi ricordo fin che campo quella parte micidiale che ha fatto quando era baraccato, proprio delinquente che di più non ne poteva, vivevano dalla pensione della nonna, non so che cosa. Brutti, sporchi e cattivi stai parlando. Esatto. Oh, in un colpo solo ci hanno messo di tutto in quel film. Tutte le pecche possibili, ladri, prostituti, prostitute. Nino Raffaelli, cioè era l'unico che poteva fare queste cose, veramente mitico quel film. C'era l'incesto, quello che si faceva la sorella, quelli quando stava lavando il corpo, allucina. Poi scene molto reali, che nella vita reale esistevano, quei ragazzini in mezzo alla mondezza, in quello coso di. Ma cacchio c'era? Poi dove scaricano la mondezza, quel coso lì giocando in mezzo alla mondezza. Lui c'aveva quell'occhio tutto strano, era un artista, in quella parte lì era per perfetto, diciamo, ha fatto il massimo che poteva fare. Un'altra parte, non dico simile, ma sullo stesso filone, è quando uno invece lavorava e faceva, me lo ricordo, che era operaio con quel, te lo ricordo, il moto picco, no? Quelli all'area compressa, e lui era sempre con questo moto picco, ta ta ta ta ta ta, ta, per far studiare il figlio, poi invece il figlio aveva, per farlo sposare, aveva altri gusti. Te lo ricordi quel film? Sì, ma poi molto triste è quello che lui era immigrato in Svizzera, che è andato a vivere in quella casa dove c'erano le galline, che erano tutti bassi e stavano tutti piegati. Mamma mia, il film è triste. Quella è proprio la realtà, che poi erano visti male gli italiani all'epoca, stiamo parlando degli anni 60, subito dopo la guerra, dai, anni 50, fine anni 50, e lui è andato in Svizzera con una busta, con qualche vestito, e poi alla fine si è messo, non sapeva dove andare, perché poi ce li hanno mandati via. Lui è saltato dal treno perché l'avevano espulsi e si è andato in questa specie di coso delle galline, dove c'era questa famiglia che parlavano tutti come le galline, a forza di viverci parlavano come le galline. Era una cosa triste, ma di una tristezza allucinante. Allora era micidiale. Sì, in Svizzera. Io sono andato da bambino in Svizzera. Figurati che mi avevano rimproverato e ti dicevano, ho capito un tubo, però mi avevano rimproverato perché mi ha mangiato una caramella e ho buttato la buccia per terra, ne arriva questo qua, questo vigile. No, non ho capito una mazza. Allora fai il droga, piccolino, tu lo fai, e c'è mia zia che capiva perfettamente la lingua. Quindi diciamo, sta dicendo di raccoglierlo da terra e buttarlo in cestino, perché queste cose non si fanno, anche se sei piccolino. E io ho fatto così, però sai, beh, i bambini a quell'età cosa capiscono? Sì, se no, ci sono andato tante volte. Mi ricordo, anche io non dico non giovanissimo, grandetto, da c'avevo avuto un 28-30 anni, dai. E sono andato di lì e abbiamo preso, anzi questa pasticceria, abbiamo preso una di quelle pasta che hanno tanto zucchero a velo sopra. Cazzo, ci credi che è caduto qualcosa in terra? Ero mortificato col piede cercando di nasconderlo, perché ho detto cazzo, qua è talmente pulito, non c'era una briciola di niente in terra. Ed era per dire zucchero, non era che briciole di mondetta, di cose del genere, di caramelle, eccetera. E ci sono pure rimasto male, col piede cercavo di distribuirlo per non farlo vedere, per dire come sono gli svizzeri. Però gli italiani non sono tanto ben visti, ci vedono troppo furbetti a noi, ci considerano furbi, tipo come quando tu vedi i napoletani che vai a Napoli, devi stare attento, ossia che ti freghi, una cosa del genere. Loro sono visti, siamo visti così, in questo modo, non tutti, però diciamo in grande parte è così. Beh, anche lì c'è un bellissimo film, questa volta con Alberto Sordi, se non ricordo male, che era proprio in Svizzera, in Germania, non ricordo. E questo era benestante. Poi ci hanno fatto osservazione, tu italiano, eccetera, quello si è incazzato, io italiano.